fede che nel Consolo di Titano, perché adesso passo all'esempio concreto in cui voi avete stabilito quello questo. La regione intendo, ovviamente, non voi che io. No, no, la regione. No, perché mi sembra abbastanza, diciamo, come dire, mi sembra che il professore approvi anche le leggi regionali sul piano casa. Io ritengo invece che queste leggi regionali sul piano casa abbiano inciso indirettamente, ma in modo molto incisivo, come l'ho anche scritto, spero che prima o poi qualcuno se ne accorga, ma se ne sta accorgendo credo anche il Consiglio di Stato, hanno inciso, ripeto, ma tutte le leggi sul piano regionale, in modo determinante sui vincoli presenti. L'esempio che voglio fare è quello delle cosiddette case mobili. La legge regionale, che ancora non risulta pubblicata sul CURAS, prevede che nelle strutture ricettive all'aria aperta, leggi campeggi prevalentemente, possono essere installate prefabbricati, bungalow, caravan, maxi camper, e qui poi farò una domanda al professor Roccella conclusiva. E queste attività, dice la norma, non costituiscono attività rilevanti sul piano urbanistico, edilizio e paesaggistico. Quindi vuol dire che nei camping della Sardegna, sappiamo tutti che i camping della Sardegna insistono tutti sulle coste e comunque in zone di elevato pregio ambientale, come del resto quasi tutti i camping in Italia, potranno essere installate liberamente, che sono quindi zone vincolate o con decreto ad hoc o vincolate perché sono nell'ambito della fascia costiera, strutture prefabbricate, che si sono verificati già casi, ci sono procedimenti penali in corso, senza essere tenuti minimamente a richiedere la concessione edilizia e l'autorizzazione paesaggistica, nonostante l'articolo 3 del DPR 380 del 2001 stabilisca che queste strutture, se installate a carattere non temporaneo, prevedono la concessione, e nonostante l'articolo 181 del decreto legislativo 42 del 2004 prevede che qualsiasi modificazione del territorio deve essere subordinata all'autorizzazione paesaggistica. Quindi abbiamo, fra poco, questa situazione paradossale, che un gestore di camping, purché regolarmente autorizzato e nei limiti della capacità ricettiva, oppure autorizzata, così dice la norma, potrà installare decine, guardate che non sono esempi di specie, perché sono esempi che si sono concretamente verificati e per i quali l'autorità penale è intervenuta, per cui è da ritenere, siccome era già una norma della regione Sardegna, è intervenuta proprio per superare questo ostacolo dovuto a una lettura della norma precedente da parte dell'autorità giudiziaria. Si potranno installare, dicevo, decine di prefabbricati destinati ad abitazione, le cosiddette case mobili, che di mobile non hanno assolutamente nulla, mentre per esempio nella stessa località sottoposta al vincolo, la posizione di una parabola per la ricezione del segnale televisivo potrà tranquillamente essere oggetto di un procedimento penale, perché qualsiasi modificazione del territorio in quelle zone diverso dall'installazione dei prefabbricati subirà verosimilmente, necessariamente, questa sorte. Allora vi chiedo, una norma di questo genere è o non è costituzionale? Può una regione che ha competenze esclusive in materia di paesaggio accettare che nei camping, sulle coste, vengano installati senza alcun limite numerico strutture e immobili di questo tipo? Mi chiedo, rientra nella competenza esclusiva della regione? Allora, qui si incide, e finisco, si incide su una norma di carattere, su due norme di carattere penale. Perché voi sapete bene che in tutto il resto del territorio nazionale l'installazione di queste strutture prefabbricate è sottoposta a concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica. Se mancano, si risponde dei reati di cui all'articolo 44 del DPR 380 del 2001 e, se manca anche l'autorizzazione paesaggistica, del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 42 del 2004. In Sardegna, dalla pubblicazione sul CURAS di questa legge, ciò non sarà più possibile. L'autorità, la magistratura ordinaria non potrà più procedere, come finora ha fatto, per questi casi. Molti dei quali, aggiungo, configurano per il numero dei prefabbricati il reato di lottizzazione abusiva. Lottizzazione abusiva con tutte le gravi conseguenze che questo reato, voi sapete bene, comporta. Allora, qui il problema non è tanto del rispetto delle norme amministrative, del fatto che la competenza della regione Sardegna in materia paesaggio in qualche modo può superare diverse norme del codice urbano, su questo possiamo essere d'accordo, ma non può superare le norme penali e non può superare le norme fondamentali di riforma economico-sociale che spetta naturalmente a noi individuare, anche se naturalmente l'ultima parola è della Corte Costituzionale. Sono d'accordo che una delle norme fondamentali di riforma economico-sociale è quella che comporta la necessaria concertazione per la revisione del piano paesaggistico, di tutti i piani paesaggistici, non solo di quelli a regioni ordinarie. Su questo sarà il professor Orcella eventualmente a dire qualcosa naturalmente di più specifico. Se questo è vero però, le norme che incidono sul piano paesaggistico vigente sono norme illegittime costituzionalmente, lo sono sicuramente molte di esse sotto il profilo penale. Per questo concludo dicendo che a mio giudizio non è tanto un problema di smantellamento del piano paesistico con le norme che credo che siano in corso di approvazione. Io sono molto più critico sotto questo profilo. Credo che il piano paesistico della regione Sardegna, che è uno dei vanti, io lo, mi ha fatto piacere sentire il professor Salzano dire questo, perché io lo dico, sì, perché lo dico io stesso, perché sono certamente molto meno autorevole, da circa 4 anni, contiene tutte le rigidità che naturalmente possono essere oggetto di modifica e sono d'accordo con lui, però ritengo che già le norme della legge sul piano casa stanno smantellando questo. Ma lo stanno smantellando non solo qui, non è una critica rivolta alla regione Sardegna, lo stanno smantellando in tutti i posti in cui le leggi regionali sui piani casa, e molte sono state appunto le questioni di legittimità sollevate, stanno interferendo sui singoli piani paesistici. Grazie, grazie.